mondo Dante di allontanamento, come una bestia ingrata covando pensieri di annientamento. La propria esistenza come una forma di libertà, quella libertà che è fatta dalla metabolizzazione, il pensare e il realizzare in maniera concreta, in maniera coerente. E vivere la propria giornata, darsi una pausa e poi parlare non tanto a chi ti ascolta, parlare a uno specchio che non c'è, ma che è come se esistesse, e parlare a un microfono che praticamente non c'è, ma che esiste. dai microfoni di Indie Radio il nostro saluto va a Ciccio Velo che ci ha lasciato. Questo è per te Ciccio, e sei il nostro maestro. Dopo la pausa estiva, Indie Radio ritorna con tante notizie da darvi, ma soprattutto ritorna con una grande tristezza. La tristezza per un compagno, un amico, una persona molto importante che non c'è più. Ciccio Velo ci ha lasciato in questa calda estate del 2011. Lo ha fatto nel suo stile, lo ha fatto come forse solo lui sapeva fare. Probabilmente lo faremmo meglio, lo ricorderemo meglio Ciccio se continueremo a fare la radio, se continueremo a far sì che Transizione di Fase esista, se continueremo a far sì che Indie Media esista e che esistano tutte le realtà che Ciccio Velo ha conosciuto e alle quali ha dato una forte impronta. Sempre cercando di riassumere in un certo senso le notizie più importanti di questo mese nel quale Indie Radio è stata assente, parliamo di quello che è accaduto a Londra, ricordando quello che troviamo sulla prima pagina del nuovo sito di Italy Indie Media, e si ricorda dunque quello che è accaduto, dove un giovane a Londra di 29 anni non ha voluto fermarsi innanzi ad agenti che volevano solo arrestarlo ed umiliarlo. La sua fuga e il suo atteggiamento orgoglioso sono stati dunque mal digeriti da chi è abituato a essere temuto e riverito. Quindi vediamo che queste storie si ripetono. Ricordiamo a Parigi il novembre del 2005, Atene del dicembre 2008 e San Francisco nel luglio 2011. Ora tocca a Londra, quindi giovedì 4 agosto nel quartiere di Tottenham la polizia ha ucciso un uomo che stava scappando per sottrarsi all'arresto. Si chiamava Mark Dugan, aveva 29 anni, una compagna e 4 figli. La repressione colpisce ancora una volta. E poi è tanto facile per chi sta al potere dare la colpa, attribuire la colpa ai social network, alla libertà di espressione e di stampa. Eppure è strano, perché nell'Occidente queste libertà vengono poste in prima linea nel momento in cui si va a combattere ad esempio le forze del male dell'Oriente musulmano. Ebbene, quando poi qualche disordine tra virgolette colpisce la città, è tanto facile ritirare la libertà, proprio quella libertà nel cui nome si mandano i soldati occidentali a combattere le guerre giuste, le guerre di liberazione, o meglio le operazioni di pace. Very long when you're lonely. sempre da Italy Indie Media, leggiamo di un nuovo articolo che riguarda la verità per Federico Aldrovandi. Infatti le motivazioni della sentenza di appello del giugno 2011, con le quali si conferma la condanna per i quattro poliziotti, ossia Paolo Forlani, Enzo Pontani, Monica Segazzo e Luca Pollastri, responsabili della morte di Federico Aldrovandi, dipingono uno scenario inquietante nel quale si è consumata la violenza che ha ucciso Federico, così come i successivi tentativi di inquinamento delle prove e di manipolazione della verità messe in atto dalle forze dell'ordine e che hanno visto il coinvolgimento della stessa questura di Ferrara. Nel comportamento degli agenti, i giudici hanno evidenziato condotte di estrema violenza inflitte con intenzione punitiva, una violenza gratuita assolutamente vietata dalle regole nei confronti del giovane che invano ha implorato i poliziotti fino all'ultimo di frenare il pestaggio. Gli avvocati dei poliziotti ora confidano nella Cassazione, ma le motivazioni che accompagnano la sentenza di appello non lasciano alcun dubbio su come si siano svolti i fatti in quella notte del 25 settembre 2015, sulle responsabilità e sul comportamento tenuto dagli agenti della famigerata pattuglia di polizia Alfa 3. E poi Indimedia Italia ricorda una cronologia degli eventi legati a questo omicidio fino alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza, e sono riportati poi una serie di link, tra i quali anche il blog su Federico curato dalla sua famiglia e anche un estratto video dal docufilm È stato morto un ragazzo, la testimonianza cioè di Anna Marie Cesaengue, la sola testimone oculare che ha raccontato la verità. Questa calda estate del 2011 Indie Media Calabria ricorda una serie di smantellamenti e di sgomberi che hanno vissuto numerose realtà sociali presenti in due università, quella della Calabria e quella di Palermo. A Cosenza il rettore Giovanni Latorre ha infatti deciso lo sgombero di numerosi spazi collettivi che hanno diversa natura e diverse storie, e quindi le ruspe si sono abbattute e hanno divelto gli spazi dove operavano le compagnie di Libero Teatro e di Rosso Simona, e anche lo spazio Filo Rosso. Quindi abbiamo visto delle scene raccapriccianti con delle ruspe che distruggevano delle lamiere dove prima invece avevano sede questi spazi. Dopo pochi giorni anche il collettivo dell'LSA Assalto ha trovato la propria aula svuotata e occupata da operai che erano intenti invece a sinteggiare gli spazi, e nello stesso giorno i ragazzi della P2, un'altra aula autogestita dell'Università della Calabria, hanno trovato invece la serratura cambiata. Probabilmente non si era ancora fatto in tempo a svuotare tutto lo spazio. Ad ogni modo gli studenti e i simpatizzanti che sono accorsi in quel giorno all'assalto e alla P2 sono stati identificati senza alcun motivo. Quindi procede questa macchina della normalizzazione dell'Università della Calabria, fomentata proprio dalla Torre, che continua con le sue menzogne, che parla di una non volontà di accanirsi ma di su queste realtà, ma della voglia di rimettere in sicurezza gli spazi e dunque risistemarli. La realtà invece è ben altra. Probabilmente la Torre è molto bravo a dissimulare le proprie attività, tant'è vero che questo stesso rettore, lo ricordiamo a titolo di cronaca, negli scorsi anni è stato capace di modificare lo statuto universitario per permettersi la riconferma alla carica di rettore. Un'azione del genere ricorda ben più alte cariche dello Stato italiano. Ma come dicevamo, Calabria Indie Media ci ricorda che anche a Palermo il 3 agosto la polizia ha sgomberato lo studentato occupato Anomalia, sorto in un'area degradata, cioè un ex consorzio agrario che gli studenti avevano restituito ad usi sociali e collettivi, proprio in una città dove mancano numerosi servizi, luoghi di aggregazione, si pensa bene sopprimere le realtà esistenti. La notizia dunque di questo sgombero poi è stata presa con somma soddisfazione dalle destre, per come si apprende da alcuni comunicati che hanno pensato bene di diffondere queste forze politiche, ma di contro la solidarietà è stata veramente tanta, dalla FIOM al mondo della cultura, anche ai giovani comunisti, ed è stata poi lanciata. Ma anche a Roma non si respira certo un bel clima, infatti il 12 agosto è stato sgomberato in giro di pirateria con significativa militarizzazione dell'area che ha portato alla posizione dei sigilli alle porte dello spazio, mentre ancora prima, cioè il 4 agosto, il Volturno è stato sgomberato ma poi rioccupato prontamente nella stessa giornata. Invece il 29 luglio in via De Volsci è stato cambiato lucchetto alla sede dove si riuniscono diverse realtà di movimento, fra cui il comitato Carlos de Fonseca. Quindi in tutta Italia fondamentalmente in questo mese di agosto si è tentato di strappare alla collettività aree e spazi destinati a uso sociale proprio dalla militanza. Ma se guardiamo un po' in Europa ci rendiamo conto che probabilmente non si respira un'area troppo felice. Infatti a Barcellona è la polizia che esegue direttamente gli sfratti a colpi di manganello, mentre ancora a Parigi si registra l'espulsione di uno squat di Saint-Papier. Ma possiamo anche chiudere con questa buona notizia che ci segnala sempre Indimedia Calabria, che parla di Genova, di quanto sta accadendo a Genova, dove si parla di un piano per la rivalorizzazione dei centri sociali. Staremo a vedere, speriamo che questo piano sia effettivo e reale e che soprattutto non comprometta, come in alcuni casi può accadere, la libertà di espressione e di azione politica che gli spazi talvolta devono abbandonare per ottenere dalle forze politiche un eventuale modifica dei loro spazi. Sempre cercando di riassumere in un certo senso le notizie più importanti di questo mese nel quale Indie Radio è stata assente, parliamo di quello che è accaduto a Londra, ricordando quello che troviamo sulla prima pagina del nuovo sito di Italy Indie Media, e si ricorda dunque quello che è accaduto, dove un giovane a Londra di 29 anni e non ha voluto fermarsi innanzi ad agenti che volevano solo arrestarlo ed umiliarlo. La sua fuga e il suo atteggiamento orgoglioso sono stati dunque mal digeriti da chi è abituato a essere temuto e riverito. Quindi vediamo che queste storie si ripetono. Ricordiamo a Parigi il novembre del 2005, Atene del dicembre 2008 e San Francisco nel luglio 2011, ora tocca a Londra. Quindi giovedì 4 agosto nel quartiere di Tottenham la polizia ha ucciso un uomo che stava scappando per sottrarsi all'arresto. Si chiamava Mark Dugan, aveva 29 anni, una compagna e 4 figli. La repressione colpisce ancora una volta. E poi è tanto facile per chi sta al potere dare la colpa, attribuire la colpa ai social network, alla libertà di espressione e di stampa. Eppure è strano, perché nell'Occidente queste libertà vengono poste in prima linea nel momento in cui si va a combattere ad esempio le forze del male dell'Oriente musulmano. Ebbene, quando poi qualche disordine, fra virgolette, colpisce la città, è tanto facile ritirare la libertà proprio quella libertà nel cui nome si mandano i soldati occidentali a combattere le guerre giuste, le guerre di liberazione, o meglio le operazioni di pace. I reach out to touch New York City. Oh yes, I want me, baby. So you know I want. Then lose the blues that I left. Oh, oh, oh, oh, summer sun. Oh, summer sun. Ora a parlare di una serie di notizie relative ai vari spostamenti di Papa Ratzinger all'interno della Repubblica Italiana. E questo gestore di un ente privato, quale la Chiesa Cattolica, si muove un po' in tutta Italia provocando diverse reazioni. Effettivamente l'11 settembre il Papa sarà ad Ancona. Leggiamo una serie di comunicati anche su Italy Indie Media. E qui si chiede come mai vengono spesi dei soldi pubblici per garantire lo spostamento di ben 50 treni in direzione Ancona per garantire la presenza dei fedeli nella città dove si sta svolgendo una riunione di questa organizzazione, cioè della Chiesa Cattolica. Infatti si svolgerà il congresso eucaristico nazionale e quindi Trenitalia pensa bene di fare uno sforzo straordinario così da consentire la più ampia partecipazione popolare all'appuntamento, come recita l'apposito comunicato, però tenuto abbastanza nascosto, come appunto rivela un post pubblicato su Indie Media Italia. Ma non basta, infatti, oltre a spendere denaro pubblico ad Ancona e oltre a spendere anche denaro pubblico in un'altra città ben più povera, se vogliamo, del sud Italia, ovvero Lamezia, anche lì si stanno preparando numerosi attestati di solidarietà, di accoglienza per spendere denaro pubblico in onore di chi certamente non ne ha bisogno, cioè di questa figura papale. E, oltre a tutto ciò però anche succede qualcosa di ben più strano anche. Siamo ormai certamente abituati a vedere i nostri soldi, i soldi dello Stato italiano, sperperati per cose inutili. Ma questa volta ci pensa Sel a rendere tutto più simpatico. Infatti la locale sezione di questo partito fa affiggere sulla città dei volantini, dei manifesti di benvenuto, dove viene esultata la presenza di tutti questi cattolici nella città e soprattutto viene esaltata la figura di Papa Ratzinger. Ebbene, dobbiamo rilevare che Sel fa molto bene a scrivere questi manifesti, probabilmente saranno in linea con la sua politica. Pare che ci siano state delle rimostranze da parte della base di questo partito a livello nazionale, però non abbiamo numerose notizie in merito. Abbiamo però visto questo bellissimo benvenuto da parte del... Oh, Se agosto è stato dunque il mese degli sgomberi, settembre si apre però non solo con lo sciopero nazionale indetto dalla CGIL da un lato o dall'USB dall'altro lato, ma registriamo come a Reggio Calabria i soliti fascisti, le solite violente fasciste si abbattono sui giovani compagni. Infatti leggiamo quindi Media Calabria di questa nota del collettivo UniRC Atene in Rivolta, dove si racconta la storia di due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che in una domenica di inizio settembre in piazza Camagna hanno subito le violenze fasciste. Infatti in questa piazza si riuniscono solitamente molti giovani compagni, molti adolescenti e studenti antifascisti. Però una di queste sere un gruppo di sacinorosi fascisti, legati probabilmente a Casa Pound, come leggiamo nel comunicato, e che parlano di loro stessi come di associazione di promozione sociale, hanno in realtà colpito questi giovani che gli chiedevano il motivo per il quale stessero attingendo i loro manifesti. Questo significa semplicemente che occorre continuare a parlare di antifascismo. Bisogna ricordare che questo tema non è certamente tramontato, se ancora una volta, se ancora oggi continuano le destre, queste destre soprattutto violente e irrazionali, più di altre, non che le destre comunque ci piacciono, lungi da noi. Occorre dunque continuare a parlare di antifascismo, bisogna riallacciare le file dell'identità antifascista nella militanza quotidiana, nella lotta al precariato e nella resistenza ai continui attacchi ai diritti dei lavoratori e della collettività, nel diritto allo studio e alla ricerca. Questo è quanto scritto dai ragazzi dei collettivi universitari che hanno scritto questo comunicato. Chiaramente la massima solidarietà arriva da più parti, come per esempio leggiamo questa risposta che viene da Cosenza, dove si parla di una volontà di continuare il discorso antifascista con la proposta di effettuare un'assemblea antifascista regionale. Staremo a vedere. Ora vuole ricordare come molte volte il giornalismo e l'informazione vengono minate ora dalle forze dell'ordine, ora da quelle politiche. Viviamo davvero a corta pace. L'invito è quello a essere tutti quanti noi, i nostri media, in modo da neutralizzare anche questi abusi di potere. Succede dunque che a Cetraro un video reporter, un giornalista, viene costretto a fermarsi sulla strada dalle forze dell'ordine, che non solo rovistano da cima a fondo la propria auto, ma lo costringono a denudarsi in mezzo alla strada per dei cosiddetti controlli. Ebbene, le forze dell'ordine dovrebbero ricordare magari di non essere onnipotenti. Ma questo non basta. Vediamo che un piccolo paese in provincia di Cosenza si rende testimone di una triste vicenda, un sindaco di un piccolo paese, in preda a deliri di onnipotenza, minaccia un giornalista per via di alcune affermazioni in merito a degli spettacoli effettuati in questo paesello, semplicemente per aver riportato i commenti del pubblico che parlava di mancanza di filo conduttore all'interno di questa rassegna, che parlava anche di piccolezze, va dunque a minacciare l'articolista, l'autore di questo articolo. Ci chiediamo per quale motivo un sindaco si arroghi questo diritto. Dovrebbe egli sapere che esiste la libertà di informazione, ma probabilmente in Calabria si è abituati a leggere degli articoli compiacenti rispetto al potere. Ogni spettacolo diventa bellissimo, straordinario e perfettamente organizzato, ogni rassegna cinematografica, teatrale, musicale è fantastica e bellissima, tutte le azioni di governo locale sono da lodare, gli inceneritori dunque sono buoni, le università funzionano sempre bene, e via dicendo. Lode dunque a questi amministratori, ma basta farsi un giro nelle nostre città per verificare di persona come le lodi che si leggono sui giornali in genere non corrispondono a vero. L'invito è dunque quello di utilizzare ancora una volta i mezzi di informazione dal basso come indie media, come transizione di fase. Alla faccia dunque di questi politici e di queste forze dell'ordine. Ora vuole informarvi su un nuovo servizio realizzato da Italy Indie Media. Infatti è stata aperta una nuova sezione dedicata al videoattivismo, che nasce in seguito all'aumento di pubblicazioni originali registrate dalla riapertura del servizio sul sito nazionale. Con essa vogliamo offrire a noi attivisti la possibilità di raggiungere la vasta platea di utenti che segue Indie Media e arricchire il sito di contenuti ed approfondimenti. Per accedere alla pubblicazione sarà necessario richiedere un account personale dell'autore inviando una richiesta alla lista di gestione del sito, che è pubblica, a cui potete iscrivervi e collaborare, scrive il collettivo di Italy Indie Media. Dunque sono date tutte le istruzioni per pubblicare il materiale. E per avere dunque ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere l'articolo apposito che troverete sulla pagina centrale di italyindimedia.org. Vi ricordiamo infine che la polizia applicata a questa sezione è la medesima del sito, sebbene in casi limite la lista di discussione, la stessa alla quale l'autore può iscriversi, ha la facoltà di rimuovere eventuali materiali pubblicati che vengano reputati inadeguati. the punk rock, a red hot, a don't stop, the blonde rock, a hard rock, ooh, the hard love, yeah, the hard love. E Indie Radio finisce qui, non ci resta che salutarvi e augurarvi un buon ascolto su Transizioni di Fase, la web radio indipendente. Al prossimo venerdì, un saluto a tutti. Anime volate. A nome dell'ottimia, e stelle su cadute, senza genio né magia, canta una sirena, già mare che davanti, incanta lo silenzio, te non sguardi mai contente. La giorna sema che m'erano parute e come erano passate a roba su minuta tenivo nello scritto e non dicimo niente come nessuno sente. L'hanno cianciuto, senza genio né magia, c'è stato un momento, un lampo a cielo fermo, una mano assai gentile, una bocca per passare. Cutia, cutia.